grazie per l'invito e per la vostra accoglienza. Io ho già scritto in una delle ultime mail ad Andrea che tutte le cose che ha appena detto sono ovviamente esagerate, come si fa sempre con gli ospiti, quindi cerchiamo invece di fare un po' questa mattina un cammino insieme, un cammino di riflessione per cercare di comprendere qual è la portata di questa espressione che Gesù spesso usa, ma che noi scopriremo non indica una realtà lontana da noi, ma anzi indica proprio la realtà che Gesù ha inaugurato, che è questa che noi chiamiamo regno, regno di Dio. E poiché metteremo in dialogo il regno di Dio con il tempo secolare, il mondo secolare, che non è altro che il tempo e il mondo in cui noi viviamo, io vorrei introdurmi al tema facendo riferimento a un recente romanzo scritto da Immanuel Carrer, che è uno scrittore, uno studioso francese, che ha pubblicato il suo ultimo libro, si chiama proprio Il Regno. È particolare la biografia di questo autore, perché dopo essersi convertito al cristianesimo per 3 anni, e per 3 anni è addirittura andato a messa tutti i giorni, ha abbandonato nuovamente la fede. Proveniva da un passato agnostico, diciamo così, si è convertito al cristianesimo e dopo 3 anni ha abbandonato nuovamente la fede, lui dice adesso in maniera definitiva. E però, dopo aver abbandonato la fede, ha scritto questo libro che si chiama Il Regno e ha giustificato questa scelta dicendo che alcune parole, alcune immagini, alcune storie del Nuovo Testamento oramai fanno parte della sua vita. Quindi ha abbandonato la fede, però rimane dentro di lui una traccia di ciò che ha sentito, ascoltato, accolto, interiorizzato, vissuto, soprattutto leggendo, meditando, pregando, studiando la Sacra Scrittura. Ci sono parole e storie del Nuovo Testamento, dice Immanuel Carrer, che hanno lasciato un segno nella mia vita. A me sembra che questo sia un buon inizio, un buon incipit per mettere in connessione regno di Dio e mondo secolare. Dal momento che, leggendo questo romanzo, il lettore è invitato a chiedersi com'è possibile credere all'uomo di Nazaret, all'uomo Gesù e alle sue storie, essendo diventati oggi uomini secolarizzati, cioè vivendo in un mondo moderno e secolare. Com'è possibile credere in Gesù dal momento che noi siamo diventati uomini secolari? Quando Carrer parla della conversione, in questo libro scrive così: dietro ogni conversione al Cristo penso che ci sia una frase e che ognuno ha la sua, fatta apposta per lui, che lo aspetta. La mia è stata questa: ciò a cui ti abbandoni, colui a cui ti abbandoni, ti condurrà dove non volevi andare. È una piccola parafrasi di quello che Gesù dice a Pietro. E io, scrive Carrer, ciò che volevo più di ogni altra cosa al mondo era proprio questo: essere condotto dove non volevo andare. E in tutto questo c'è già qualcosa di straordinario che un autore, come vedete, laico, dice sul regno di Dio. Il regno di Dio è questo, è un altrove, è una realtà che sta oltre il dove tu sei in questo momento. E il dove vuoi andare, o il dove vorresti essere. E quindi in qualche modo il regno rappresenta anche e sempre il desiderio grande che ci portiamo dentro e che Gesù è venuto a realizzare. Il regno di Dio è l'oltre di Dio che ti viene incontro eppure non puoi catturarlo, che ti dà appuntamento ma si fa trovare in un altro luogo, che ti chiama eppure non sai da dove viene la voce, un po' quello che Gesù dice a Nicodemo. Proprio così la realtà del regno ti mette in cammino, accarezza e sviluppa il desiderio, ti costringe a uscire, ti fa propendere in avanti alla ricerca continua di un infinito. Vi diranno: eccolo qui, o eccolo lì, o eccolo qua, ma non credetegli, dice Gesù, non credetegli, perché il regno non è mai qui. Il regno è qui, ma è sempre altrove. Il regno è qui in mezzo a noi, ma è sempre oltre. Ed è verso questo oltre che ci vuole portare. Il regno è qui, ma è sempre al di là da venire e non può coincidere con nulla. O forse, più radicalmente, mi piace dire, si sporge proprio verso ciò che per noi è nulla, cioè verso il posto che non pensavamo e dove non volevamo andare, che è quello che Gesù dice a Pietro e che Carrer riprende in questo suo romanzo. Il regno di Dio è il luogo dove noi non avremmo mai pensato forse di andare, o dove non vorremmo andare, e però portati da questa realtà scopriamo qualcosa di importante per la nostra vita. Per questo alla fine, se il regno di Dio è l'unica cosa necessaria, così dice Gesù nel Vangelo, che cosa vuol dire essere cristiani? Significa essere portati in abbandono e fiducia laddove Dio sceglie e vuole, cioè laddove il regno ci chiama. Noi abbiamo non voglio dire la cattiva abitudine, però siamo ancora ingabbiati in un cristianesimo che dipende molto da noi, dai nostri meriti, dai nostri sforzi, da quello che noi siamo bravi a fare. Ma essere cristiani, dice il Vangelo, è andare dove il regno di Dio ti porta. Ti condurranno dove tu non vuoi. È andare oltre, quindi è lasciarsi portare da Dio più che fare qualcosa per Dio. Ecco, il regno di Dio è altro, quindi è diverso, ed è altrove rispetto al mondo secolare. E questa è la sua carica profetica. La carica profetica del regno di Dio è che il regno non è questo mondo, anche se è in mezzo a noi. Ma questa dialettica la scopriremo ancora meglio. Il regno interpreta la storia in cui noi viviamo, offre cioè alla storia dei criteri di interpretazione che la spingono sempre al di là, che la spingono oltre se stessa, che la orientano verso il mistero di Dio. E tuttavia noi con il regno di Dio abbiamo qualche problema. I problemi dei cristiani con il regno di Dio. Il primo problema, forse quello più grave, è che questa diversità del regno di Dio rispetto alla nostra vita e al mondo, questa alterità del regno di Dio rispetto a noi, cioè la diversità anche della fede rispetto alla storia, incautamente spesso diventa nella nostra spiritualità una idea di separazione, come se il regno di Dio fosse separato dalla storia umana che viviamo. Non c'è tradimento più grande del cristianesimo, se è vero che il cristianesimo è la fede nell'incarnazione. Se il regno di Dio è solo nell'aldilà, è solo nel futuro, è solo questa cosa astratta di cui ogni tanto si parla, ma non c'entra con noi, che siamo venuti qui stamattina, allora questo non è il cristianesimo, è un'altra cosa. Perché il cristianesimo dice che nella carne del Figlio di Dio il regno di Dio è venuto, anche se rimane ancora da compiersi. Non si può salvaguardare la diversità del regno di Dio rispetto alla storia in cui viviamo separandolo dal mondo, sovrapponendolo al mondo o facendolo viaggiare quasi in un binario, su un binario parallelo rispetto al mondo, che a un certo punto poi dovrebbe travasare, non si sa come, la salvezza nel mondo in cui viviamo. Tra queste due realtà, invece, regno di Dio e mondo, mi viene in mente la parabola del grano e della zizzania, che è una lettura dell'apostolato, della missione, del cuore dell'uomo, della vita della Chiesa, ma anche una lettura proprio più grande della storia. Il regno di Dio e il mondo, che non si possono separare, ma fino al giorno della mietitura, che poi sarebbe il giorno di Pentecoste, no? La festa della mietitura, vanno insieme. Tra queste due realtà c'è una correlazione, cioè noi dobbiamo distinguere storia e regno di Dio, certo, ma senza separarli. Il cristianesimo che interpreta il regno di Dio come una realtà esclusivamente trascendente, cioè dell'aldilà, rischia di essere un cristianesimo mutilato, che addomestica il mistero di Dio, trascura il dato fondamentale dell'incarnazione e genera quella che Papa Francesco chiama la spiritualità senza carne e lo spiritualismo, una fede, un Dio che non c'entra nulla con la storia che noi viviamo. Una relazione con Dio e con il Vangelo che non incide nella vita e che non è capace di trasformare il mondo in cui viviamo. Ma anche chi legge la storia umana separata dal regno di Dio e chi legge la secolarizzazione del nostro tempo come una semplice realtà che si oppone alla fede cristiana e al regno di Dio, come uno spazio profano senza Dio, rischia di cadere nella trappola dell'ideologia e per reazione rischia di cadere, e lo stiamo vedendo proprio in questi tempi, nelle maglie di un cristianesimo identitario, pauroso, polemico, agguerrito nei confronti del mondo, che non sa cogliere come nella storia secolare che noi viviamo è nascosto il mistero della grazia di Dio. Allora vedete, due sono i rischi: leggere il regno di Dio separato dalla nostra storia, ma anche leggere la nostra storia secolare come opposta al regno di Dio. E allora questo mondo diventa cattivo e noi cristiani dobbiamo difenderci. Allora entriamo un po' meglio in questo rapporto, chiarendo che si tratta di una correlazione critica. C'è stato un teologo protestante nel Novecento che si chiama Paul Tillich, che ha in qualche modo proposto il metodo della correlazione. Però c'è un limite, il limite di quell'impostazione è che questa correlazione è un po' troppo pacifica, è un dialogo troppo amichevole. E invece quella che c'è tra regno di Dio e storia secolare, e tempo secolare, e mondo secolare, è una correlazione critica. E noi scopriremo che cosa significa. Cominciamo a fare una chiarificazione allora di che cosa significa mondo secolare, tempo secolare, che cos'è questa secolarizzazione, che poi è esattamente il luogo in cui noi viviamo. Che cosa si intende con il termine modernità secolare o secolarizzata. Possiamo dire a grandi linee che dal 1500 in poi, fino al 1900, oggi noi siamo già in un'altra epoca che viene chiamata postmoderna, che da alcuni viene chiamata postsecolare, ma la cosa non mi sembra molto convincente, ma comunque siamo in un cammino evolutivo. Ma più o meno dopo il 1500 e fino al 1900 si inaugura quella che noi chiamiamo, anche sui libri di storia, l'epoca moderna, la modernità. Qual è un elemento che caratterizza questi secoli, il cambiamento di vita che c'è stato in questi secoli, di cui noi siamo un po' figli o forse nipoti? Si tratta di un'epoca che rompe con la tradizione del passato, con una visione del mondo e della vita precedente, e che inaugura una nuova interpretazione del mondo e della vita, centrata sull'uomo. L'uomo diventa programma di vita. Un filosofo americano che si chiama Richard Rorty afferma che nella secolarizzazione gli uomini non hanno abbandonato Dio, ma semplicemente lo hanno ridefinito in base al proprio ego, cioè all'assolutezza dell'io. Quando essi dicono Dio, intendono il nostro io futuro, cioè le potenzialità del nostro ego. Allora, nell'epoca moderna succede pressappoco questo, per non complicarci la vita. I paradigmi precedenti con cui il mondo veniva interpretato vengono rovesciati e al centro c'è l'io. E l'io significa che si passa dal cielo alla terra, da Dio all'uomo, da alcune verità oggettive che ci aiutavano a interpretare la vita, alla libertà, all'autonomia, alla coscienza dell'uomo. In sostanza, non è più Dio il Signore dell'azione, ma è l'uomo che provoca il progresso. Questo è un po' in sintesi quello che succede nell'epoca moderna. Questo significa, con grande beneficio poi per la nostra vita, perché dobbiamo dire anche questo, che l'uomo, messo al centro, è visto come colui che è capace di trasformare e manipolare le cose e il mondo che lo circonda. Attraverso che cosa? Attraverso il potere della ragione, attraverso l'efficienza del progresso, soprattutto del progresso tecnico-scientifico, e dunque succede una cosa, se volete, naturale, che noi abbiamo visto semplicemente come una cosa negativa, e purtroppo ancora oggi si sente dai predicatori cristiani che questa cosa è negativa, ma che in realtà non è altro che uno sviluppo, se volete, del regno di Dio. Il piano divino della salvezza è stato secolarizzato. La salvezza adesso è pianificata dall'uomo e dal progresso che l'uomo riesce a portare avanti. Allora l'era moderna, al contrario del tempo che viviamo oggi, che è un tempo un po' più stanco, più disilluso, è un'epoca di grande euforia, è l'epoca della fede nella ragione, nel progresso, nello sviluppo tecnico e scientifico, e dunque è un tempo trionfante, che è carico di attesa e di futuro. Adesso l'uomo può davvero trasformare il mondo. Questa è lo slogan, diciamo così, dell'epoca moderna. Noi con la ragione, con il progresso, con la scienza, con la tecnica possiamo cambiare il mondo. Un tempo di euforia che si apre al futuro. La stessa idea di progresso nasce quando io ho la consapevolezza, la certezza di poter trasformare le cose di adesso, e queste cose di adesso possono diventare un'altra cosa. Questo è il progresso. Io posso generare un futuro. Ora, guardate che cosa strana è successa. In questa situazione qui, la religione viene annoverata tra le vecchie superstizioni che ancora soggiogano la coscienza dell'uomo e che non le permettono di emanciparsi. Cioè, la religione, paradossalmente, in un'epoca che mette tutto nelle mani dell'uomo, che è carica di euforia e di fede nel futuro, che è carica della certezza che il mondo può essere trasformato e dunque anche il male può essere trasformato, paradossalmente in questa situazione qui le religioni vengono viste come ciò che impedisce tutto questo. Un ricettacolo di credenze che fungono da sostegno, da rifugio, da risposta rassicurante agli enigmi della vita e che però adesso in realtà la ragione e la scienza riescono a spiegare da sé. Paradossalmente, proprio in questo tempo, la modernità afferma che la religione non fa altro che relegare l'uomo ad un atteggiamento, ad un ruolo di spettatore passivo dentro un mondo incantato in cui Dio muove tutte le cose. Ora vedete, quello che è successo è paradossale, perché la fede cristiana è essenzialmente escatologica. Escatologica significa chi crede, crede che in Gesù e con la risurrezione di Gesù è iniziato nella nostra vita il regno di Dio. E se è iniziato il regno di Dio, chi crede, crede che, e oggi è Pentecoste, quindi questo ce lo possiamo dire bene, crede che le cose come stanno oggi, nella mia vita, nel mio cuore, nella mia famiglia, nel mio paese, nella mia città, nella società, le cose come stanno oggi possono essere trasformate, perché il regno di Dio è all'opera, perché l'azione di Dio è all'opera nella storia. Allora guardate, la fede cristiana che è escatologica, cioè ci fa guardare sempre al futuro, così come in Gesù si è già realizzato la risurrezione, la liberazione, la salvezza, la trasformazione del male, la vittoria su ogni schiavitù, su ogni oppressione. La fede cristiana che è escatologica, cioè che è aperta al progresso, che è orientata al futuro, perché voi sapete che tutti quelli che credono, cioè noi che siamo qui questa mattina, sappiamo bene che la nostra vita non finisce qui. Noi stiamo camminando verso quell'oltre, quell'altrove di cui parlavo poco fa. Proprio la fede cristiana che è orientata al regno di Dio che viene in Gesù, agli occhi della modernità appare come una cosa ferma, statica, chiusa, immobile. Questo è strano. Cioè la modernità secolare, che noi troppo in fretta abbiamo condannato e che condanniamo anche oggi, come si stava bene, non si sa in quale epoca si stava bene in realtà, perché in ogni epoca noi diciamo che in quella precedente si stava bene, ma questa modernità che noi troppo in fretta condanniamo, a suo modo è escatologica, cioè è aperta al futuro, promuove, genera e promuove l'idea del progresso. Certo, lo secolarizza, lo mette nelle mani dell'uomo, della scienza, della ragione, ma in ogni caso doveva esserci un incontro con il cristianesimo, perché anche il cristianesimo è aperto al futuro, anche il cristianesimo vuole trasformare il mondo, anche il cristianesimo afferma che le cose non stanno proprio così come stanno, ma che c'è un oltre, che c'è un di più, che c'è qualcosa di bello, di nuovo che noi possiamo costruire. Come mai non si sono incontrati? La fede cristiana doveva essere una sponda per la modernità, e invece no. Allora vuol dire che forse non siamo stati capaci di mostrare tutta la pregnanza di questa dimensione che noi chiamiamo regno di Dio. Non siamo stati capaci di far vedere che il cristianesimo è l'antistaticità, che il cristianesimo non vuole addomesticare l'uomo e metterlo dentro un mondo tranquillo, rassicurante, in cui Dio muove le cose, ma che il cristianesimo al contrario è una spinta verso il futuro, perché crede il regno di Dio, è l'apertura verso nuovi orizzonti. La scrittura ci parla di cieli nuovi e terre nuove che si stanno già realizzando. E il cristianesimo interpreta la storia, la natura, l'uomo in movimento. Chi è cristiano? Noi oggi riceviamo nuovamente il dono dello Spirito. Bene, chi riceve il dono dello Spirito sa che domani, anche se noi apparentemente faremo la vita di tutti i giorni, non sarà come oggi, ma questa azione dello Spirito ci avrà fatto camminare in avanti. La modernità spinge l'uomo in avanti, eppure non riesce a vedere nella fede cristiana questa spinta verso il futuro, questo desiderio di andare oltre. Allora, tra modernità secolarizzata e cristianesimo c'è stato qualche problema, ma noi dobbiamo dire non c'è una totale opposizione. Anzi, bisogna riconoscere, sapete che cosa? E questa è una novità della teologia del Novecento, che passa sempre, sempre, raramente. Non spesso anche nel Magistero si ascolta questo tono di lamento sulla secolarizzazione. La secolarizzazione è frutto del cristianesimo, è generata dal cristianesimo, e senza una ottusità ideologica da entrambe le parti ci sarebbe stata continuità, ci sarebbe stato dialogo tra il mondo moderno e la fede, e non ci sarebbe stata contrapposizione. Uno studioso della secolarizzazione che si chiama Charles Taylor afferma che nella cultura secolare moderna si ritrovano mescolati l'uno con l'altro sia autentici sviluppi del Vangelo, di un modo di vita coerente con l'incarnazione, che una chiusura nei confronti di Dio, negatrice del Vangelo. Qual è allora la lettura? L'idea di fondo è che la cultura moderna, rompendo con le strutture e le credenze della vecchia cristianità, abbia fatto progredire certi aspetti della vita cristiana più di quanto non fosse avvenuto o sarebbe potuto avvenire all'interno della cristianità. Vogliamo fare un esempio? È più vicina al Vangelo la Chiesa dell'epoca di Costantino o la Chiesa di oggi? Eppure quello era il tempo del cristianesimo, era il tempo della Pax, no? Tra Stato e Chiesa. Era più cristiana una società medievale nella quale anche in nome della fede alcuni, penso per esempio alle donne, non avevano riconosciuto uno spazio e una dignità? O è più cristiano il nostro mondo secolare che in nome di una battaglia secolare ha portato avanti una battaglia per le donne che la Chiesa ha fatto sua? Allora vedete, dobbiamo stare attenti quando parliamo della secolarizzazione, perché la secolarizzazione in certi aspetti, non in tutti e lo vedremo, ma in certi aspetti è lo sviluppo del regno di Dio in termini secolari. Un grande teologo che si chiama Schillebex porta un altro esempio e dice: quando noi vediamo un ospedale che ha le insegne cattoliche, il nome cattolico, ed è gestito dai preti e vi lavorano le suore, noi pensiamo che quell'ospedale sia il segno di una società cristiana e che all'interno di quella società cristiana, ecco, c'è questa prestazione nell'ambito della carità. Ma se in nome della secolarizzazione si tolgono le insegne cristiane e quella congregazione religiosa non può più, per ragioni anche numeriche e di altro genere, gestire l'ospedale, e quell'ospedale passa in mano ai laici, vuol dire che automaticamente quella società è diventata non cristiana e quell'ospedale è diventato non cristiano? Potrebbe essere il contrario, potrebbe essere che finalmente ci sono dei laici che in nome del Vangelo e del Regno di Dio vivono la loro professione, spendendo la vita per gli ammalati, in un modo così autentico e generoso che quello non è altro che uno sviluppo del Regno di Dio in termini secolari, cioè mondani. Allora vedete, noi dobbiamo stare attenti a questo cristianesimo identitario che identifica la società cristiana solo quando ci sono, no, delle bandierine che ne determinano, e dobbiamo invece vedere gli sviluppi del Regno di Dio in un mondo che è diventato secolare. In effetti la secolarizzazione è iscritta nell'essenza stessa della fede cristiana, già nel progetto della creazione. Dio crea l'uomo come un essere libero e responsabile e, primi capitoli del libro della Genesi, gli affida la cura del giardino del mondo. Lo pose nel giardino perché lo custodisse. Il mondo è affidato alla cura dell'uomo. Questa è la secolarizzazione. La secolarizzazione dice: dobbiamo essere autonomi nella gestione della vita, del mondo, della realtà e della natura, e non diventare prigionieri di visioni che siano sacrali o che siano in qualche modo dettate da un qualche potere, che può essere religioso o può essere di tipo politico. Dio crea l'uomo, e vedete, nell'atto della creazione c'è un'alterità tra Dio e uomo, tra uomo e mondo. Noi non siamo l'emanazione di Dio, noi non siamo l'epilogo di Dio, noi siamo un'altra creatura. Dio ci pone nel mondo come soggetti adulti, responsabili, liberi, e a noi affida, ci mette al centro del mondo e a noi affida la responsabilità della storia. Questa è esattamente la secolarizzazione. E se l'epoca moderna, visto che è animata dal progresso e dalla fede nella scienza e nel progresso, desidera attraverso il lume della ragione scoprire ciò che ancora nel mondo non c'è, creare ciò che ancora non c'è stato, trasformare quello che è al momento presente, la modernità orienta l'uomo verso il futuro, verso il divenire, ma in questo è molto affine alla visione storica ed escatologica della fede cristiana. Infatti, guardate, pensiamoci bene, la fede biblica su che cosa si fonda? Su una parola che orienta al futuro. Tu uscirai e andrai nella terra che io ti darò. E questo primo esodo che Dio promette a Israele si realizza pienamente, abbracciando tutti gli altri aspetti della vita, in Gesù, nella risurrezione di Gesù. Anche voi verrete, io vado a prepararvi un posto, e sono la via per questo incontro col Padre, che sarà un incontro di vita e di benedizione per l'eternità. Questa è la promessa cristiana, è una parola che orienta al futuro, verso quella terra promessa, quei tempi nuovi che sono stati inaugurati e compiuti da Gesù e che ci invitano a cogliere il mondo e la vita come una storia in divenire. Noi stiamo camminando, grazie a Dio. E se stiamo camminando verso quel futuro che ci è stato promesso, quel futuro che ci è stato promesso ci chiede qui di camminare portando avanti la stessa missione di Gesù Cristo. Questo vuol dire essere nel regno, ma non è molto diverso dall'essere uomini moderni e secolarizzati. Quantomeno non è in contrapposizione. In sostanza, vi riporto su questo tema dell'incontro tra secolarizzazione, tempo secolare e fede cristiana, le teorie e le riflessioni teologiche di un teologo tedesco oggi più che novantenne che si chiama Metz. In sostanza, noi immaginiamo spesso un mondo divinizzato, un mondo sacrale, immobile, nel quale però l'uomo rischierebbe di essere una pedina nelle mani di Dio, ma in realtà la fede cristiana crede in un mondo ominizzato. E ieri sera mi dicevi un po' questa bella battuta: fa come Dio, diventa uomo. Di Don Giorgis. Fa come Dio, diventa uomo. Se vuoi essere cristiano, devi fare come Dio. Ma Dio cosa ha fatto? È sceso nelle profondità dell'umanità, si è fatto uomo, si è fatto carne. Allora, dice Metz, la fede cristiana vuole rendere più uomo l'uomo e più mondo il mondo. E quando si dice questo, e c'è sempre fuori qualcuno che dice: ah, ma questo però ancora non è il tutto, perché questo sembrerebbe quasi un programma umano, terreno, e questo sembrerebbe un programma antropologico e non teologico. Non è così, perché diventare pienamente uomini, così come Dio ci ha sognati, prima del peccato originale, se volete, diventare pienamente umani, secondo la statura e la misura dell'umanità di Cristo, di cui ci parla Paolo, e questo non è un compito umano, è un compito che solo Dio può fare nella nostra umanità, è lo Spirito che ci rende uomini in questo senso qui. Cioè, voglio dire che lo scopo di un annuncio cristiano, di una missione cristiana, non è portare quell'uomo nella sacrestia, ma è portarlo nel mondo con una qualità umana diversa, che è quella di Gesù Cristo. Il nostro compito, compito della Chiesa, non è fare dei chierichetti, degli uomini pii, ma è fare dei continuatori del regno di Dio, dei testimoni, degli annunciatori e dei testimoni del regno, che è altra cosa dall'essere degli uomini pii. La mondanità del mondo, cioè il fatto che il mondo diventi veramente mondo, e cioè uno spazio non toccato, non segnato dalla ferita del peccato, questo è il sogno di Dio, dice Metz. E questa realizzazione della mondanità del mondo, anche se per ragioni storiche, politiche, si è dovuta affermare contro il cristianesimo, perché tra modernità e cristianesimo abbiamo litigato già due secoli fa, vi ricordate il modernismo, tutte le accuse, in realtà si realizza grazie al cristianesimo, è un avvenimento cristiano, che l'uomo diventi più uomo, che il mondo diventi più mondo, che l'uomo diventi capace di essere libero, adulto, responsabile, autonomo, è un avvenimento cristiano, è un frutto della fede cristiana. Peccato che agli occhi del mondo moderno la fede cristiana invece non vuole rendere gli uomini liberi, adulti e responsabili, ma li vorrebbe in qualche modo soggiogare. Allora il processo di mondanizzazione e di umanizzazione del mondo avviene proprio perché Dio nel mondo ha immesso nella storia e nel mondo la sua presenza attraverso l'incarnazione. Pensate a questa novità sconvolgente che la fede cristiana afferma e crede: Dio si è fatto carne. Sapete che significa questo? Dio si è fatto seculum, si è secolarizzato. Dio si è fatto secolare. Sapete che a noi preti diocesani ci sono tutta una serie di discorsi nella Chiesa così contro la secolarizzazione. Poi a noi preti diocesani ci chiamano preti secolari. Perché siamo preti secolari? Perché a differenza di alcuni ordini religiosi che hanno un determinato carisma, noi viviamo semplicemente la nostra missione nel secolo, cioè nella storia. Significa, se posso avere un po' d'acqua magari, significa nel mondo nel mondo in cui viviamo, con la gente, in mezzo alla gente. Pensate il parroco, no? Il parroco è secolare, cioè vive nel secolo. Ma questo è un segno dell'incarnazione. Dio si è fatto carne, significa è entrato nella storia, è venuto ad abitare in mezzo a noi, ha messo la sua tenda in mezzo a noi, e il Figlio di Dio ci mostra come tutto questo lo abbia vissuto con sentimenti di vicinanza e di compassione nei confronti di ogni uomo. E questo è esattamente un programma, diciamo così, secolare. Pensate, e tutto questo noi lo ricaviamo dalla predicazione di Gesù, che Gesù nella sua missione relativizza il Tempio per dirci, pensate alla parabola del buon samaritano, che Dio adesso non lo si incontra più esclusivamente nel Tempio e nelle pratiche del sacro, ma Dio lo si trova nel comandamento dell'amore, cioè in quella relazione personale con Lui che si mostra nel volto di chi è ferito ai bordi della strada. Dio non lo si incontra più negli antichi sacrifici, e per questo Gesù viene messo a morte, è attaccato per aver in qualche modo rovesciato un'idea di Dio. Non lo si incontra più in quei sacrifici del Tempio che separano dal mondo, ma dal momento che si è fatto carne ed è qui, Dio lo si incontra qui, nella carne, nel volto del fratello, soprattutto nel volto del fratello più povero. La trascendenza di Dio adesso in Gesù è incarnata, è la trascendenza di colui che ascolta il grido del suo popolo, cioè del seculum, e scende per liberarlo, è quello che Dio dice a Mosè. La trascendenza di colui che non puoi vedere in volto, eppure brucia in un roveto ardente, di colui che pur essendo Dio, dice San Paolo, si è abbassato, cioè si è secolarizzato ed è divenuto servo e schiavo dell'umanità. Grazie. Ecco, l'incarnazione esprime proprio questa essenza cristiana. Dio, nella carne del suo figlio Gesù, ha accettato il mondo. Ha accettato, ha dato il benvenuto al seculum. E lo ha fatto con un atto escatologico che lo salva dal di dentro, un atto definitivo, e che lo spinge verso una pienezza. Siete già risorti con Cristo, eppure state ancora camminando verso la pienezza di questa liberazione. Allora, quando è che tra secolarizzazione, tempo secolare e fede cristiana, regno di Dio e tempo secolare, si crea un'opposizione? Quando noi non siamo più capaci di cogliere un fatto straordinario, e cioè che la visione secolare del mondo, se è ben intesa come rapporto di alterità tra l'uomo e Dio, è radicata nella stessa storia biblica e nello stesso evento cristiano. Dio si è fatto carne e ha posto la sua tenda in mezzo a noi. Gesù è stato ucciso perché non era si è fatto come Dio, questa è l'accusa. Non era possibile che Dio abitasse la carne di un uomo. Non era possibile che Dio abitasse lo spazio secolare. Allora questa è la più grande novità del cristianesimo, motivo per cui Gesù è morto. Ma noi continuiamo a distinguere quello che è cristiano da quello che è secolare. E questo fa un torto al nostro essere cristiani e all'incarnazione. Allora guardate come Paolo VI aveva ben distinto quella secolarizzazione che è frutto del cristianesimo e che noi dobbiamo accogliere, vivere con la profezia del regno di Dio, e quella secolarizzazione che invece è chiusa al regno di Dio, ma che non dovremmo più chiamare neanche secolarizzazione, ma secolarismo. E Paolo VI, nella Evangelii Nuntiandi, scrive così: noi non parliamo della secolarizzazione, che è lo sforzo in sé giusto e legittimo, per nulla incompatibile con la fede o con la religione, di scoprire nella creazione, in ogni cosa e in ogni evento dell'universo, le leggi che li reggono con una certa autonomia, perché il creatore stesso vi ha messo queste leggi. Questa è una secolarizzazione giusta, è un'autonomia giusta che la fede cristiana incoraggia. Altra cosa, dice Paolo VI, è il secolarismo, una concezione del mondo nella quale questo si spiega da sé senza che ci sia bisogno di ricorrere a Dio, divenuto in tal modo superfluo e ingombrante. Allora, tutto questo discorso è per dire che tra regno di Dio e tempo secolare c'è un'affinità, nella misura in cui la secolarizzazione non è altro che quello spazio umano in cui Dio è all'opera, ma è all'opera in maniera silenziosa, in maniera nascosta, con la grazia del suo spirito e lasciando all'uomo la libertà e la creatività di gestire le cose della vita. La secolarizzazione non è cristiana, e allora non è una secolarizzazione, ma è secolarismo, quando taglia completamente Dio e lo estromette dai processi della vita e del mondo. E da qui possiamo cercare di capire, di chiederci qual è la dialettica che esiste tra regno di Dio e mondo secolare, che io ho chiamato una dialettica del paradosso. Se tra mondo secolare e regno di Dio non c'è un'opposizione, è anche vero che non c'è una identificazione. La formula teologica che esprime questo è, recita così: il già e il non ancora. Il già e il non ancora significa il regno di Dio è una realtà presente in questa nostra storia umana, che cresce nella nostra storia umana secolare, e tuttavia in questa storia non è ancora compiuto. Deve ancora venire. Esistono delle tracce, dei germi del regno di Dio che silenziosamente, talvolta anonimamente, crescono nel nostro mondo, in quella piccola logica del seme o del lievito di cui Gesù ci parla nelle parabole, eppure il regno di Dio, nella sua compiutezza, deve ancora venire. Questa distanza che c'è tra il già e il non ancora, siete già risorti con Cristo, ma quello che saremo non è stato ancora rivelato. Vedete, nel cristianesimo noi viviamo sempre di questo binomio, no? Noi tutti facciamo questa esperienza di luce e tenebre, di certezze e di dubbi, di una vita cristiana che c'è già, e però di aspetti della nostra vita che ancora hanno bisogno di conversione. C'è sempre questa dualità. In questo spazio tra il già e il non ancora si situa quella che noi possiamo chiamare la distanza critica, cioè lo spazio della profezia. Il regno è già in questo mondo, ma se noi dicessimo che questo mondo è il regno di Dio, non dovrebbero esserci nelle violenze, né il male, negli egoismi, nelle malattie. Allora, com'è che è già in questo mondo e però in questo mondo noi viviamo tutte queste esperienze? Ecco, in questa distanza si situa la profezia del regno. Che cos'è la profezia del regno? È il fatto che l'opera di Dio è presente nella nostra storia, ma è anche una chiamata a trasformare la nostra storia, a liberare il mondo e a condurlo altrove. Ci sono segni evidenti nel regno di Dio, nella nostra vita e nel mondo secolare, ma contemporaneamente il regno di Dio è una contestazione profetica di tutte le strutture, le visioni e le ideologie che in questo mondo feriscono e abbruttiscono l'umanità così come Dio l'ha pensata. Un teologo che ha riflettuto molto sul regno di Dio, teologo protestante che si chiama Moltmann, dice che la relazione tra regno di Dio e storia secolare va letta nel segno di una reciproca tensione, di una dialettica. non sono due cose separate, l'abbiamo già detto, ma non sono neanche identiche. L'escatologico, cioè il regno, diviene storia in Gesù, ma la venuta di Gesù ci chiede che la storia diventi regno di Dio, che la storia si trasformi e diventi regno di Dio. E allora il regno di Dio nella storia secolare è anticipo di ciò che noi saremo, e questo mondo nuovo, questa Gerusalemme nuova, questo cielo nuovo, questa terra nuova che Gesù ci fa vedere e che però noi non aspettiamo passivamente, ma iniziamo qui a realizzare proprio perché stiamo camminando verso quella meta. Cioè, se io devo fare un viaggio e devo arrivare in un posto, devo cercare almeno di fare la strada che porta lì, non posso andare da un'altra parte. Il regno di Dio anticipa tutto ciò che noi saremo, ma nell'anticipare tutto ciò che noi saremo contesta quello che siamo. E questo è il tema della conversione. Cioè è una resistenza messianica contro tutte le forze del male e della morte che ancora sono all'opera. Quando Gesù ci fa vedere il regno di Dio, anticipa ciò che deve venire, ma ci dice anche tutto ciò per cui dobbiamo combattere e che dobbiamo ancora trasformare, e nella nostra vita e nella società. E allora il regno di Dio è orientamento verso il futuro, ma è contemporaneamente trasformazione del presente. E qual è questa profezia del regno di Dio per il tempo secolare? La Lumen Gentium, questo documento, grande documento del Concilio Vaticano II, dice: il popolo di Dio, mosso dalla fede, cerca di discernere negli avvenimenti, nelle richieste e nelle aspirazioni cui prende parte insieme agli altri uomini del nostro tempo, quali siano i veri segni della presenza e del disegno di Dio. Discerne i segni della presenza di Dio, e tutto ciò che non è nel segno della presenza di Dio e che è quindi tutto ciò che noi radicalmente chiamiamo peccato, lo combatte, lo trasforma. Chi scruta il disegno di Dio vede con gli occhi del cuore e della fede una realtà che ancora oggi nella sua vita e nella storia non è compiuta, è in divenire, ci sono piccoli segni. Gesù dice: il più piccolo di tutti i semi poi solo dopo diventa un albero grande dove tutti gli uccelli possono farci il loro nido. Piccoli semi sparsi, frammenti, gemiti, piccole luci che fanno sperare l'arrivo della notte. Solo questo noi vediamo del regno di Dio, ma tutto il resto è ancora immerso nelle tenebre, nella contraddizione, nelle ambiguità, nella fragilità umana, in mezzo ad egoismi e a chiusure, cioè è ancora chiuso nella ferita del peccato. E allora che cosa fa il regno di Dio? Ci viene incontro nella fede, nella preghiera, nella presenza di Gesù, nello spirito che opera nella nostra vita, nella celebrazione dell'Eucaristia, dove noi abbiamo l'anticipo reale del regno di Dio in mezzo a noi, e ci fa vedere il mondo così come Dio lo vuole, ma non per darci uno zucchero, dice: siccome state male, adesso vi faccio vedere cosa succederà, ma per dirci che se questo è il suo sogno, deve essere anche il sogno per cui noi combattiamo. Chi vede il regno di Dio, cioè il cristiano, sa che il regno di Dio giudica questo mondo. Questa è una parola che un po' ci disturba, ma giudizio, proprio nella sua etimologia, significa lo interpreta, lo discerne, intromette dentro questo mondo una piccola fessura, una piccola crepa, perché laddove non c'è la pienezza di umanità, di gioia, di pace, di giustizia, di amore che Gesù è venuto a realizzare, lì noi siamo chiamati ad essere i continuatori dell'opera del Cristo. Allora, capite, è bellissimo l'incontro tra regno di Dio e tempo secolare, perché abbiamo detto che non sono separati, ma il fatto che non sono nemmeno identici significa che noi cristiani guardiamo alla storia partendo dalla fine. Cioè noi stiamo nelle nostre realtà, nella famiglia, nel lavoro, nella politica, nella società, avendo davanti agli occhi e nel nostro cuore il mondo così come Dio lo ha sognato da sempre. E il mondo, cioè quei cieli nuovi e quella terra nuova che noi vedremo, verso cui stiamo camminando. Allora nella risurrezione di Gesù, questo poi è bellissimo vederlo anche nei misteri della vita di Maria, no? Nell'assunzione di Maria al cielo, per esempio, noi vediamo il tipo di uomo, il tipo di società, il tipo di mondo dove regnano la giustizia, la pace, l'amore e la gioia. E siccome ci rendiamo conto che ancora questo non è, anzi che ancora quello non è il nostro mondo, noi ci impegniamo a realizzarlo, e ci impegniamo a realizzarlo non solo con le nostre forze, ma proprio con questa azione del regno di Dio dentro di noi, con l'azione dello Spirito dentro di noi. Per definizione il regno di Dio è una provocazione per la storia del mondo, soprattutto per quelle situazioni di degrado dell'uomo e dell'umanità. Allora noi siamo posti in questo tempo secolare e in questo mondo secolare non per essere più bravi degli altri, non per rifugiarci nelle nostre liturgie, ma per abitare questo mondo con lo sguardo di Dio sulle cose e sulla realtà, e per vivere quindi in tutte le cose una maggiore responsabilità critica e profetica, perché il regno di Dio possa lievitare. Io sono a volte turbato di come noi cristiani siamo indifferenti. È possibile che noi abbiamo una bellissima teologia della creazione che nasce già dal libro della Genesi, e per noi il creato ha questo significato. Arriva un papa che per la prima volta nella storia del Magistero della Chiesa scrive un'enciclica sull'ambiente, Laudato Si, e poi il movimento di sussulto per cambiare le cose in questo mondo viene da Greta e da tutta una serie di giovani che non hanno quasi nulla a che fare con la fede cristiana. Ma perché non trovano nel cristianesimo la profezia del regno di Dio? Ho dovuto dire a qualche ragazza che conosco, che partecipa attivamente a questo sito, ma il Papa ha scritto, veramente il Papa ha scritto una cosa, nessuno lo sa, non lo sanno neanche i preti, perché non vogliono saperlo. Questo è grave, perché vedete, il regno di Dio è questo tipo di profezia, questo tipo di sussulto, di cambiamento della storia. Compito del cristianesimo, ce lo testimonia la scrittura nella storia biblica, soprattutto dei profeti, e poi anche nel libro dell'Apocalisse, è rinnovare e purificare lo spazio del mondo e delle attività umane, intervenendo con la logica del Vangelo nell'organizzazione della vita, della società e della cultura, soprattutto smascherando le grandi Babilonie, le ideologie che sono contrarie al regno di Dio e quindi sono contrarie all'uomo. Pensiamo all'affermazione di una certa modalità del potere, pensiamo alla logica del mercato, pensiamo a quella che Papa Francesco chiama la cultura dello scarto, pensiamo alla violenza, alla discriminazione e quant'altro. Che cos'è in definitiva il regno di Dio che Gesù annuncia? È la presenza di Dio in mezzo a noi. È la presenza salvifica che Dio offre e che le creature liberamente accettano, diventando essi stessi capaci di costruire la giustizia, la pace, l'amore in tutte le relazioni della loro vita. Il regno di Dio alla fine è Gesù all'opera, è la prassi stessa di Gesù, è lo stile con cui Gesù abita il mondo. E se c'è una cosa che noi dovremmo fare come cristiani, invece di fare i fioretti quaresimali, ecco che io mi arrabbio sempre durante la quaresima e dico alle persone, smettetela di non mangiare cioccolato e cercate di mettere dentro questi condomini, questi quartieri. Roma è una città, come sapete, anche molto problematica. Qualcosa del regno di Dio, perché questa conversione siamo chiamati, non al piccolo sacrificio che mi fa sentire un po' meglio e dice: ah, però sono stato bravo per questi 40 giorni, forse Dio mi dà qualche premio. Ma no, quella è così, l'educazione. Facciamo tutti così, perché questa è la nostra formazione. La bimba di 6 anni dice già: io faccio come papà e mamma, non mangio, nessuno deve essere così. È questo. Regno di Dio è il Messia stesso che in quella compagine religiosa che noi conosciamo dai Vangeli immagina Dio in un modo nuovo, non più come una potenza amica soltanto della classe sacerdotale, ma come un Dio compassionevole verso i più deboli e colmo d'amore verso i feriti della storia. E dice Schillebeck: il cristiano che vuole essere un profeta del regno di Dio non ha sul mondo uno sguardo borghese della serie la messa, le cose, poi però ognuno rientra nella propria comodità, ma piuttosto, più che appartenere ad una comunità onesta, senza fastidi, ad una lobby di pii, scrive proprio così, ha sguardo, occhi, cuore e mani sveglie e attente nel segno della compassione verso i deboli, della lotta per la giustizia e della prassi di liberazione dell'umanità. E questo si può fare nel piccolo, già con il vicino di casa. Allora vorrei lanciare, per chiudere, 3 provocazioni di questa profezia del regno. Come possiamo concretamente accoglierla, provare a realizzarla anche nelle nostre comunità cristiane? La prima è stata ricordata all'inizio: ritornare a Gesù e al Vangelo. Il contenuto dell'espressione regno di Dio non è altro che la vita stessa e l'opera stessa di Gesù. Gesù è il regno di Dio venuto in mezzo a noi. Allora, questo sembra uno slogan banale, ritornare a Gesù, ma è proprio ciò di cui abbiamo bisogno, perché talvolta, sono contento che il Papa l'ha scritto anche nell'esortazione apostolica post-sinodo, dice: annunciate ai giovani il kerygma, cioè l'annuncio sic et sempliciter del Vangelo. Dio ti ama, e questo amore è vero ed è vivo nella persona di Gesù Cristo, e Gesù Cristo con il suo amore entra nella tua vita e la trasforma, e tutto ciò che è opera di morte lo trasforma in vita, e l'ultimo nemico che sarà abbattuto sarà la morte, perché tu risorgerai. Annunciate ai giovani questo, poi verranno dopo i comandamenti, la chiesa, la morale, tutto verrà dopo, ma annunciate l'essenziale del Vangelo. Anzi, in quel paragrafo il Papa dice: a volte ci si perde in tante altre cose, i giovani si annoiano, pensano che la fede sia una serie di obblighi morali pesanti e noiosi e se ne vanno altrove. Allora, essere profeti del regno di Dio in un tempo secolare significa, in una società cioè che per certi versi è anche diventata post-cristiana, recuperare l'essenza del messaggio cristiano, il cuore dell'esperienza della fede radicata nel Vangelo, e quindi in sostanza ritornare alla relazione con Gesù. E penso che in questo senso noi viviamo nel nostro tempo il pontificato di Francesco come una profezia del regno di Dio in mezzo a noi. Perché Francesco scrive nella prima esortazione apostolica, il primo documento che un Papa scrive è un programma del pontificato, Evangelii Gaudium: invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare oggi stesso il suo incontro personale con Gesù Cristo, o almeno a prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno senza sosta. Gesù Cristo può anche rompere gli schemi noiosi nei quali pretendiamo di imprigionarlo e ci sorprende con la sua costante creatività divina. Ogni volta che cerchiamo di tornare alla fonte e recuperare la freschezza originale del Vangelo, spuntano nuove strade, metodi creativi, altre forme di espressione, segni più eloquenti, parole cariche di rinnovato significato per il mondo attuale. Diceva Metz, già negli anni 70, si discute tanto della crisi d'identità del cristianesimo, ma questa crisi non riguarda il suo messaggio, bensì il fatto che i soggetti, cioè i cristiani, e le istituzioni ecclesiali, si sottraggono alla pratica di questo messaggio. Questa è la crisi cristiana, che non viviamo il regno di Dio. Tornare a Gesù è un programma teologico-pastorale che viene suggerito veramente bene, viene organizzato, suggerito veramente bene da un teologo spagnolo che si chiama Pagola. E Pagola ha scritto proprio dei testi, uno di questi si chiama Tornare a Gesù, come rinnovare parrocchie e comunità, e dice Pagola occorre superare le reazioni della autodifesa, l'opzione della restaurazione e aprirci alla novità del regno di Dio, facendo del cristianesimo non una religione del passato, che ha tutte le cose sistemate, ma la fede che fa sì che gli uomini e le donne del nostro tempo collaborino al progetto che Gesù ha iniziato. Se il progetto di Gesù è realizzare il regno di Dio nel mondo, allora, afferma Pagola, dobbiamo liberare la forza del Vangelo, recuperare il protagonismo centrale che il Vangelo ha avuto alla prima nascita delle comunità cristiane. È giunto il momento di capire e organizzare la comunità cristiana come uno spazio dove la cosa principale è accogliere il Vangelo di Gesù. Un luogo collocato nel mezzo della società di oggi, dove ci si preoccupa prima di tutto dell'accoglienza del Vangelo. A volte si ha l'impressione che lo spazio delle nostre comunità ci sia tutto, ma manchi questa relazione intima, personale, rinnovata e fresca con il Vangelo e quindi con Gesù. La seconda provocazione è un tema che mi sta molto a cuore da sempre, su cui ho lavorato e su cui uscirà anche un libro nel prossimo autunno, a Dio piacendo, con una prefazione di Enzo Bianchi, è rinnovare, promuovere una nuova immagine di Dio. Noi non potremo essere profeti del regno, portatori del regno, costruttori del regno di Dio, fino a quando daremo a questo mondo l'immagine di essere persone parcheggiate, tranquille, statiche, che non si appassionano per nulla, che non si inquietano, che non lottano, che non si fanno scalfire dai dubbi, fino a quando, come dice Papa Francesco, la fede sarà per noi il rifugio in cui abbiamo costruito tutte le nostre belle certezze e siamo ben consolati. Fino a quando non saremo capaci nelle nostre relazioni, nel lavoro, nelle attività quotidiane e nella comunità cristiana di essere un segno alternativo, noi non daremo l'idea di essere seguaci del Messia di Nazareth, ma daremo l'idea di esserci invece sistemati all'interno della Chiesa o della fede cristiana. Tornare a Gesù significa, ravvivando la nostra relazione con Lui, attuare la prima vera grande riforma di cui abbiamo bisogno. C'è bisogno di riformare la Chiesa, i consigli pastorali, tutto, ma la prima grande riforma è trasformare la nostra immagine di Dio. E passare da un'immagine di Dio errata, negativa, ostile alla felicità dell'uomo, ostile alla libertà dell'uomo, a quella che invece Gesù ci svela, il Padre della misericordia, il Padre della tenerezza, il Padre che manda il Figlio perché noi abbiamo la vita in abbondanza e noi abbiamo creato una religiosità sacrificale, un'ascesi che non è cristiana, perché non è liberante. una prigione. In questo prossimo libro, che a Dio piacendo uscirà in autunno, racconto subito all'inizio la scena, la bella scena di un film che si chiama Conversazioni su Dio, che racconta una storia vera, quella di Neil Donald Walsh, il quale, dopo essere finito sul baratro per aver perso il lavoro, vive una forte esperienza di Dio e diventa un famosissimo messaggero spirituale. I suoi libri adesso sono un best seller in America, poi c'è tutto il mondo americano dietro questo, ma ci interessa un po' meno. Allora, mentre sta predicando in una sala, una signora del pubblico chiede: se Dio volesse farci arrivare un messaggio, intendo il suo messaggio più importante per tutti noi, e lei dovesse sintetizzarlo in un paragrafo, che cosa scriverebbe? E Neil fa una pausa e poi risponde: lo ridurrei a 4 parole, voi mi avete frainteso. Voi mi avete frainteso. Abbiamo un'immagine di Dio che non corrisponde al Dio che Gesù ci ha svelato. E si ascolta di frequente, soprattutto da parte di coloro che sono un po' distanti dalla nostra fede, quando vengono a parlare, se si ha la pazienza di ascoltare senza aggredire, naturalmente, più si scende in profondità nella discussione, più si vede che quel Dio o quella Chiesa verso cui stanno rivolgendo la loro distanza non è il Dio di Gesù. Purtroppo talvolta è il Dio di cui hanno avuto esperienze. E allora lì è un po' più difficile rimuovere l'ostacolo. Ma annunciare a queste persone che Dio è un altro, a volte è una scoperta meravigliosa. E vedere come le persone cambiano quando: ah, ma allora è così. Pensa, io non mi confessavo da 40 anni perché pensavo che... Succedono nella vita, ecco, dei miracoli. Allora l'odierna crisi del nostro tempo, di questo tempo secolare, che è una crisi che investe poi il mondo, la società, la vita, è radicata qui. Noi abbiamo frainteso Dio. E questo deve far riflettere la comunità cristiana sui linguaggi, sulle prassi, sulle liturgie, sulla teologia che soggiace alle nostre predicazioni, alle nostre catechesi, sullo stile dell'essere Chiesa, come vorrei una Chiesa povera per i poveri. Ma qui c'è la profezia del Vangelo, non possiamo non vederla, no? Quale Dio stiamo immaginando? E quale volto di Dio annunciamo agli altri? A volte è un Dio opprimente, soffocante, un giudice severo, uno che controlla, ha scritto un teologo olandese che si chiama Utepen, una telecamera nelle nostre stanze da letto, che controlla tutti i nostri movimenti, un contabile, oppure, come diceva Bonhoeffer, un tappabuchi, cioè quello che noi mettiamo laddove ci sono situazioni che non sappiamo spiegare. E tutto ciò ha generato spesso nei cristiani, e se ne incontrano ancora tanti, atteggiamenti religiosi alimentati dalla paura, oppure dalla scrupolosità, oppure centrate sul peccato e sul senso di colpa. Tutto ciò naturalmente non può entusiasmare un uomo diventato adulto, un uomo secolare, un uomo che vuole essere libero, autonomo, maturo, responsabile. Allora bisogna rimettere al centro anche della nostra formazione questa domanda: in quale Dio crediamo? Perché è una domanda cruciale del nostro rinnovamento. Pensate, faccio solo questo riferimento, al linguaggio che Gesù usa per parlare del regno di Dio. Per parlarci del regno, Gesù immagina lievito, farina, semi, alberi. Questo è il linguaggio del Vangelo, che è meraviglioso. Cioè il Vangelo non ci comunica mai delle verità fredde in cui credere, ma vuole provocare la nostra immaginazione, perché la nostra umanità si apra a una visione diversa. il mio maestro, che si chiamava padre Gallagher, padre gesuita che ha insegnato in Gregoriana per molti anni, diceva, anzi ha scritto, che la fede è un modo che Dio ci ha dato per immaginare la nostra vita. Ma passa questo nelle nostre predicazioni, nelle nostre comunità cristiane, ai nostri giovani di oggi? E la terza e ultima cosa è che, proprio in virtù di questa distanza che c'è tra storia e regno di Dio, e il regno di Dio che interpreta la storia a partire dalla fine, cioè da quello che Dio ha sognato per noi, noi dobbiamo vivere un cristianesimo critico e profetico. Se torniamo a Gesù e purifichiamo la nostra immagine di Dio, il Vangelo parla alla nostra vita in modo nuovo, ci porta ad abbandonare quel cristianesimo che si risolve in riti e norme morali, per farci recuperare la chiamata a diventare discepoli che assumono lo stesso stile dell'umanità di Cristo e la sua stessa prassi nel mondo. Qual è la novità del regno di Dio? Essere controculturali, cioè profetici, non per scomunicare il mondo, ma per puntare il dito contro tutto ciò che abbrutisce questo mondo e l'uomo che lo abita. Secondo Pagola, i cristiani devono trovare uno spazio nella società per essere una presenza alternativa, che si indigna per le ingiustizie e per la sofferenza, che lotta contro ogni forma di idolatria, che in poche parole vive tutto ciò che Gesù ha vissuto. E pensate a questa profezia che il regno di Dio ci consegna: ci libera dalla fissazione del presente, perché ci dice che la nostra storia è di là da venire, ci libera dal feticismo del mercato e del denaro, perché la tua vita non dipende dai tuoi beni, dice Gesù, ci libera dalla logica dell'efficientismo e del potere, perché un piccolo seme seminato bene può produrre un grande albero. Ci libera da tutto ciò che annulla la bellezza della dignità umana, perché il regno di Dio è questa compassione di Dio verso ogni volto, verso ogni figlio, verso ogni creatura. E dice Metz una cosa bella: la mistica dei cristiani è una mistica dagli occhi aperti. Ecco, il tempo secolare ha bisogno di cristiani che abbiano occhi aperti, cioè che sappiano vedere in questo mondo tutto ciò che deve essere trasformato. E la rivoluzione di Gesù, che Gesù ci racconta nella parabola del buon samaritano, è questa: il sacerdote e il levita passano oltre, cioè non vedono. Il buon samaritano vede il dolore, si ferma, se ne prende carico e così lo apre alla trasformazione. Alla fine Gesù con questa parabola afferma che non si può credere in Dio e restare ciechi dinanzi al dolore del mondo. Essere profeti del regno significa anche questo: sollevare il dolore del mondo, condividere il dolore del mondo. Dio ha occhi aperti, soprattutto sui poveri, e chi vuole essere segno del suo regno deve fare memoria di Gesù, e dice Metz è una memoria pericolosa, perché contesta le cose, le ferite di questo mondo, e per questo Gesù viene messo in croce. È una memoria che ci fa diventare critici e profetici. Abbiamo interpretato e praticato il cristianesimo come una religione sensibile al peccato, ma forse poco sensibile al dolore e quindi alla solidarietà. Vado a chiudere perché già penso che siamo in orario. Essere profeti del regno e promuovere uno stile di vita che inquieta l'apatia e che appunto ci fa diventare profeti, costruttori di giustizia e di pace. Vorrei solo leggervi che cosa Karl Rahner ha scritto pochi mesi prima di morire, e quando gli hanno fatto una domanda sul regno di Dio e sul futuro, dice, ma il nostro tempo è appesantito, è ferito dal male, dal peccato, dalla violenza, e sembra di vivere il tempo di oggi. E lui ha parlato della sua morte, che sarebbe avvenuta da lì a poco, a poche settimane, dicendo che quello sarebbe stato il momento in cui nell'incontro con Dio, il regno di Dio per lui si sarebbe realizzato pienamente. Un giorno gli angeli della morte spazzeranno via dai meandri del nostro spirito tutti quei rifiuti inutili che noi chiamiamo la nostra storia. Un giorno tutte le stelle dei nostri ideali, con cui avevamo arrogantemente drappeggiato il cielo della nostra esistenza, cesseranno di brillare e si spegneranno. Un giorno la morte introdurrà un vuoto straordinariamente silente, e noi accoglieremo tale vuoto con fede, speranza e verità. Un giorno tutta la nostra vita precedente, per quanto lunga, ci apparirà come un'unica breve esplosione della nostra libertà, che ci sembrava estesa solo perché la vedevamo al rallentatore. Un giorno scopriremo, terribilmente spaventati, ma anche ineffabilmente giubilanti, che questo vuoto enorme e silente che noi chiamiamo morte è in realtà riempito da quel mistero originario che diciamo Dio, dalla sua luce pura e dal suo amore che tutto ci toglie e tutto ci dona. Un giorno, dal mistero di questo mondo ancora ferito dal peccato, vedremo emergere il volto di Gesù. È allora che sperimenteremo il tramonto stesso della morte come l'inizio di ciò che viene. E questo è il regno di Dio, è l'inizio di ciò che viene. Grazie. Ringraziamo di cuore il professor Cosentino, vi chiediamo una cortesia. Oggi pomeriggio avremo modo di riprendere tutti molto bene. Siccome ci sono anche altre persone, la messa di orario alle 11, vi chiediamo di spostarvi subito nella cappella alla mano e celebreremo la messa.